Comunione dal vivo. Leggo nella Bibbia in 3 Giovanni, capitolo 1, versetti 13 e 14. Avrei molte cose da scriverti, ma non voglio farlo con inchiostro e penna, poiché spero di vederti presto, e allora parleremo a voce. La pace sia con te. Gli amici ti salutano. Saluta gli amici a uno a uno. Fino a qualche anno fa si parlava di più faccia a faccia. Poi, con l'avvento dei cellulari, abbiamo cominciato a parlarci di più utilizzando il telefono. Oggi ormai non ci si incontra quasi mai, perché si fa tutto via email, via telefono o via chat. Negli ultimi anni, anche nel mondo del lavoro, si utilizzano soprattutto le email per comunicare anche a breve distanza. Spesso si finisce per scambiarsi un sacco di botta e risposta per scritto, mettendo in copia anche terze persone, quando sarebbe molto più rapido risolvere alcuni problemi alzando semplicemente il telefono e componendo un numero. Eppure, nonostante il proliferare di vari mezzi di comunicazione, incontrarsi e discutere faccia a faccia mantiene sempre un fascino particolare e rimane sempre la cosa migliore. Nei versi che abbiamo appena letto appare un grande affetto dalle parole dell'Apostolo. Certe cose Giovanni preferiva non scriverle, ma comunicarle di persona. Essere fratelli significa proprio questo: avere voglia di stare insieme, di vedersi il più presto possibile, di parlarsi a voce. Niente può essere paragonato alla bellezza di incontrarsi, leggere, pregare, dialogare e anche discutere insieme se necessario. I credenti hanno bisogno di stare insieme, non possono accontentarsi della comunione a distanza. Molti giovani cristiani, ma ormai anche meno giovani, preferiscono partecipare ai forum cristiani o ai vari social networks come Facebook o Twitter, ma poi disertano gli incontri in assemblea con gli altri credenti. Forse è più comodo, perché quando qualcuno scrive qualcosa che non piace, basta spegnere il PC e rimandare il fastidio di dover rispondere ad un altro momento. Ma avere a che fare con persone in carne e ossa ci aiuta a relazionarci meglio e a imparare l'uno dall'altro. Di persona, a volte non servono neanche parole per comunicare, basta uno sguardo o un abbraccio per capirsi. Giovanni e Gaio avevano molti amici in comune, come emerge dai saluti finali. È importante sviluppare vera amicizia e per farlo è essenziale incontrarsi, conoscersi, guardarsi in faccia. Difficile farlo solo davanti allo schermo di un PC o tramite SMS. La comunione dal vivo è essenziale anche nel XXI secolo.